Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo particolarmente riconoscenti a Marco Bandini per aver offerto un oggetto di riflessione così importante come il suo ultimo volume, Tesi per una riforma religiosa, con due presentatori del calibro di Massimo Cacciari e Sergio Gimona. Marco Bandini è il maggiore studioso italiano di mistica speculativa. E a lui si debbono impeccabili edizioni dei maggiori autori di questa, che fra le vie della mistica è senza dubbio la più vicina alla filosofia. Propone un'opera, quella di oggi, che non potrà certamente essere ignorata dal dibattito culturale in corso. Già dal titolo, Tesi per una riforma religiosa, il saggio promette un approccio al tema religioso sicuramente rivoluzionario e fuori da schemi consunti e in qualsiasi modo si voglia giudicare. Le tesi sono 60 e rappresentano, dice l'autore, la sintesi di un patrimonio presente nella tradizione mistico-filosofica non solo occidentale. Esse appariranno, rileva ancora l'autore, forse estreme, paradossali, certo inattuali a un lettore comune, ma sicuramente anche stimolanti e capaci di aprire nuove finestre di senso a chi non vuol cadere nel gorgo del nichilismo. Io mi fermo qui, ho detto fin troppo, non sta a me parlare con questi grandi, grandissimi presentatori di cui io inutili elenchi le qualità e le loro occupazioni. Comincerei da Massimo Cacciari. Scusi sindaco, questo ci vuole, bisognerebbe parlare con questo microfono, sì, perché c'è la registrazione. Grazie. Come diceva l'introduttrice, si tratta certamente di un libro estremo per certi versi, che conduce alle conseguenze ultime, penso, un percorso intellettuale, di ricerca storica e autonoma di Marco Bandini. E un libro che sarà, in cui contenuto sarà molto difficile che riusciamo ad affrontarlo in una breve serata. È un libro che, come dice il titolo, d'altra parte, Tesi, vorrebbe anche recuperare proprio la forma del prendere posizione drasticamente all'interno non solo di un dibattito culturale, teologico, filosofico, ma anche proprio specificatamente religioso, dove il termine indica una vita comunitaria a cui ci si appella chiedendo una decisione. Quindi questo tono del libro non è soltanto un timbro, come dire, letterario, fa parte della sostanza del libro e quindi va preso sul serio, non possiamo sottrarcene. Non siamo di fronte ad un libro che presenta alcune tesi storiografiche, eccetera. Sì, siamo di fronte a un libro il cui autore pretende, nel senso letterario del termine, di invitarci ad una decisione radicale. Addirittura Marco fa riferimento introduttivamente proprio alle tesi luterane affisse alle porte del Duomo, e allora faremmo torto a Bandini se intendessimo tutto ciò in modo debole, come si trattasse appunto di un espediente letterario, e invece non lo prendessimo radicalmente sul serio, e cioè lo trattassimo come fu trattato Lutero. Cioè, chiedendogli ragione fino in fondo alle sue affermazioni, alle sue posizioni, e invitandolo appunto a ribadirle qui di fronte alla sua comunità, senza mezze parole. Il Vangelo di Marco è sicuramente di Marco, scusate, il Vangelo di Marco Vannini, perché c'è anche quello con Marco, quindi sono equivalenti. Il Vangelo di Marco 2, diciamo, il Vangelo di Marco 2 è sicuramente più di quello di Marco 1, il Vangelo del Regno, Evangelion tes Basileias. E il regno per Marco, la Basileia per Marco, è entos imon, ma come traduceva Lutero, dentro voi, immanente a voi, non fra, non in mezzo come di solito viene tradotto. E dal punto di vista forse letterale più propriamente, ma non è certo qui il momento di fare una appunti filologici. Lutero traduceva come Marco: dentro voi, in voi, dentro voi. Quindi, primo aspetto, una presa di posizione drastica verso ogni escatologia, come dire, progressista. Una scelta drastica per una escatologia attuata, realizzata, pienamente, perfettamente realizzata. Il regno è catturato ora, è venuto, non si avvicina, è venuto. Quindi non soltanto una polemica diretta ed esplicita verso ogni escatologia, tra virgolette, progressista, ma anche verso quella escatologia attuantesi, che è quella più oggi più largamente condivisa dagli esegeti, da Jeremias in poi, insomma, in parte anche Dodd e tanti altri. Una escatologia attuantesi, non attuata né semplicemente futura, ma attuantesi, non risolta comunque nell'ora. Ecco, qui Marco Vannini è radicale ed è una scelta fondamentale da un punto di vista non soltanto esegetico, ma appunto religioso, nel senso che prima richiamavo. Non so se è chiaro il legame di questa scelta rispetto al contesto e al complesso della religiosità cristiana. Una scelta di questo genere, radicalmente condotta alle sue logiche conseguenze, vuol dire che questa escatologia non ha alcun rapporto con la risurrezione. E infatti non ne ha, nel testo di Marco, nessuno. È venuto, è lì, quella è l'Apocalisse. Quello è il trionfo, tra virgolette. Quella è la doxa teu. Non c'è nessun legame necessario con la risurrezione, con l'idea di risurrezione, nessun legame necessario. Intrinsecamente necessario. Ciò che è assolutamente necessario in questa presa di posizione è che per catturare ora il regno, che è necessario, e qui Vannini recupera tutta e fa sua integralmente tutta la sua interpretazione, di cui tutti noi siamo riconoscenti in questo paese, della tradizione mistica altotedesca, renana, cartiana, eccetera. Quello che è necessario è una dialettica del distacco che sia insieme della piena e completa accoglienza. Il distacco, diciamo così, da ogni filopsichia, da ogni egoità, che produca quel vuoto che permette di accogliere e di essere, come dire, il regno. Non c'è alcun dubbio che questa dinamica, questa dynamis della fede come distacco radicale e kenotica accoglienza, direi, è al centro delle beatitudini, e soprattutto di quell'aspetto delle beatitudini di Matteo che in termini così enfatici anche sottolinea la differenza, torneremo su questo punto che è decisivo nella presa di posizione, nelle tesi di Vannini, che sottolinea così drasticamente il distacco mandatum vetus, direi quasi, no? Dal comandamento, dalla legge veterotestamentaria. Distacco e accoglienza. Qui Vannini fa suo, diciamo, la centralità di questo aspetto che ritroviamo in autori a lui cari, che lui ha letto in questa chiave cartiana, ad esempio, anzi non ad esempio, centralmente proprio Nietzsche, no? Il tema fondamentale del Gesù di Nietzsche, come anche a me è capitato qualche volta di sottolineare, è certamente questo aspetto, no? dove non si resiste al male, che rappresenta anche del giudaismo rabbinico, ma in modo diverso. Anche nel giudaismo rabbinico è presente questo aspetto di non resistere topon eron, comunque poi venga tradotto questo termine su cui si può discutere all'infinito. Ma certamente nel contesto delle beatitudini questo aspetto collegato a quello in particolare dell'amare il nemico e non solo lo straniero, eccetera, come nella tradizione rabbinica, rappresenta con il massimo vigore proprio questo aspetto di distacco da ogni filopsichia, da ogni amore di sé, ama il tuo nemico, distacco da ogni filopsichia, e apertura radicale e drastica a questa fede illuminante. Quindi il tema del distacco e dell'accoglienza è assolutamente centrale, mentre altri temi che Vannini direbbe teologici, e poi torniamo su questo termine, sono assolutamente non solo non necessari, ma svianti, fuorvianti, tra cui certamente quello della risurrezione. Ecco, l'uomo nobile, l'uomo del distacco e dell'accoglienza più piena, è il regno, o meglio, ha vita eterna oggi. E l'immagine di questo uomo nobile è appunto Gesù il vivente. Gesù il vivente è l'immagine di questo nuovo, di questo uomo nobile, termine appunto come tutti sanno cartiano, uomo nobile, uomo del radicale distacco e della piena accoglienza. Gesù il vivente, l'illuminato, in Marco Gesù diventa l'illuminato. Anche qui bisogna essere precisi e drastici anche noi nella nostra lettura. Gesù il vivente, anche il termine stesso è proprio di certi apocrifi, come si usa dire. Gesù il vivente è l'illuminato che guida all'illuminazione. Marco lo dice pressoché esplicitamente e si rifà ad un tentativo che lui ha perseguito anche in altre opere, in altri libri, di leggere questa sua interpretazione della mistica spirituale cristiana in un'ottica che la collega fortemente anche a tradizioni induiste e buddiste in particolare. Gesù il vivente anche nell'espressione proprio Buddha il vivente. E quindi Gesù è l'illuminato che guida alla illuminazione. E una volta che noi siamo illuminati, anche noi siamo Buddha, siamo Gesù, siamo tutt'uno, siamo uno con Lui, uno. Non uno siamo, ma uno è. Uno è. Torniamo su questo punto. Nulla di incomprensibile o di... è la linea del Vangelo di Tommaso. È il Vangelo di Tommaso, su cui molti hanno lavorato, pensando appunto che addirittura Tommaso, l'evangelizzatore dell'India, eccetera, eccetera, proprio ci fossero dei rapporti anche storici tra questa tradizione apocrifa e le tradizioni proprie della grande religiosità indiana. Quindi questa è la linea, mi pare, esplicita. Tutto il resto è mitologia. Tutto il resto viene scartato. Gesù è l'uomo nobile, l'exemplum di uomo nobile, l'illuminato che guida all'illuminazione. Una volta che noi attraverso la sua guida diventiamo anche noi illuminati, siamo uno, anzi l'uno è. Quindi una radicale immanentizzazione, anche questa ben presente appunto in quelle tradizioni indiane, buddiste indiane, radicale immanentizzazione dell'idea di regno. E declinazione rigorosamente gnostica del tema del Salvatore. Il Salvatore è colui che illumina e guida all'illuminazione, l'illuminato, il perfettamente illuminato che guida all'illuminazione. Certo, in Marco è una gnosi perfettamente spirituale, del tutto depurata da tutti gli elementi mitologici appunto che caratterizzavano peraltro la gnosi storica e anche la gnosi cristiana. Ci troviamo di fronte ad una, appunto, tesi per una riforma, ci troviamo di fronte ad una visione, ad un'intuizione spirituale di cui si comprende e si vede tutta la profondità e la sofferenza anche, l'autenticità, l'esperienza che ci sta sotto, non una elaborazione dottrinale, basta, come è evidente appare in altri libri di Marco. Qui la presa è diretta, un'intuizione spirituale di fronte alla quale è pressoché impossibile dare un giudizio in termini giusto, sbagliato. È una tesi, appunto. La si condivide o si crede, e lui sottolinea questo aspetto, Vannini, questo aspetto di questa fede perfettamente spirituale, o si crede o si vede, o queste tesi vengono viste, vissute, se ne condivide l'esperienza fondamentale. Sarebbe ridicolo e non farebbe, e direi al limite offensivo nei confronti di Marco, andare a giudicare queste tesi. È evidente la loro drastica opposizione rispetto ad una tradizione, alle tradizioni certamente, per così dire, per usare una terminologia politica del tutto fuori luogo, maggioritaria all'interno della cristianità. Che cosa possiamo dire di fronte a una posizione di questo genere? Proviamo a dire qualcosa, proviamo a sollevare alcune questioni, ma appunto con questa avvertenza che vorrei sottolineare, non è un libro come altri di Marco in cui si può discutere la sua interpretazione di Eckhart, la sua interpretazione di Hegel, eccetera, eccetera. Qui è un libro, appunto, tesi per una riforma religiosa, un appello all'esperienza di ciascuno di noi, un appello proprio evangelico, appunto, in un certo modo. Cambiate mente, ci dice, cambiate mente. Allora, nella sostanza, questa posizione, per un verso, è la ricorrente riemersione nella cristianità del grande antagonista poi di ciò che divenne, poi che divenne, si formò la Chiesa, tra virgolette, ortodossa, del grande antagonista. Già Bonaiuti lo indicava come il grande antagonista, Arnach, eccetera, cioè di Marcione. Questo è un libro che ha un fondamento assolutamente ed esplicitamente marcionita, non deve assolutamente stupire questa presenza, ritorna periodicamente all'interno della cristianità. È esplicito in Marco questo, in Marco Vannini. Il Dio di Gesù non è quello di Israele. Tesi molto impegnativa, tesi veramente che fa scandalo, no? Perché la Chiesa attuale si è sforzata in tutti i modi invece di recuperare la relazione, il rapporto, eccetera. Ma certamente non si comprenderebbe la storia della cristianità senza questa continua, tra virgolette, tentazione di spezzare primo patto e secondo patto. E non c'è alcun dubbio che la tra virgolette, tentazione di questo strappo, di questa discontinuità è presente nel testo evangelico stesso e nelle beatitudini di Matteo esplicito. Però non c'è alcun dubbio che non si può in alcun modo, da un punto di vista filologico, interpretativo, esegetico, pensare che il Dio di Gesù non fosse il Dio di Israele. Quindi non siamo di fronte a una esegesi che in nessunissimo modo sarebbe minimamente attendibile, siamo di fronte ad una decisione, come quella di Marcione. Sapete che Marcione leggeva Matteo 5,17: non sono venuto ad adempiere la legge, ma a distruggerla. Nel Vangelo di Marcione era così. Marco dice la stessa cosa in modo forse appena appena più diplomatico. E bisogna sostenerle queste cose. Marco si appella a una visione, a un'intuizione religiosa di questo tipo. La Bibbia, dice Marco Vannini, è superstizione, anzi è il fondamento di ogni superstizione, la Bibbia veterotestamentare. Direi che da questo punto di vista, per intendere appieno il io mi sono tra virgolette divertito, perché non c'è niente di divertente in questo libro, a leggere insieme in questi giorni il libro di Vannini con alcuni testi, alcuni libri di Quinzio. Ecco, sono i due poli della religiosità possibili, della religiosità cristiana di oggi, i due poli. Ed è bello, tra virgolette, che autori di questo genere così radicali siano italiani. Vuol dire che in questo paese, bene o male, scrivo dopo una piccola parentesi, chiudo subito, c'è ancora questa passione, questo gusto per una ricerca che non è semplicemente sedentaria e udita, in cui uno rischia se stesso nervi, sangue. No. Ricerche di questo genere, come quella di Marco, come quella di Quinzio, peraltro, sarebbero inconcepibili ormai in altri paesi europei, credo, del tutto inconcepibili. Su questi temi vi è esegesi e basta. Invece questa passione che fa rivivere, ci piaccia o no, ci sia o non si sia d'accordo, si condividono o non si condividono queste intuizioni, ma questi testi che fanno rivivere così in presa diretta, come faceva per conto suo Quinzio, questi testi, beh, è un segno di, credo, di straordinaria vitalità della nostra ricerca e della nostra intelligenza. Sta di fatto che questa è la tesi di Vannini, che nella sostanza è marcionita, e ripeto, non si comprende la tensione della cristianità senza questa presenza sotterranea, che la Chiesa all'inizio cercò di eliminare, ma basta leggere il grande trattato di Tertulliano, da cui attingiamo gran parte delle notizie su Marcione, per capire la grandezza di questo personaggio con cui si confrontò la Chiesa delle origini. E ritorna. Per altro verso non è affatto Marcione, perché Marco niccianamente è anche radicalmente Marco Vannini antagonista alla teologia di Paolo, cioè alla prima teologia. Paolo fa una teologia, non c'è dubbio alcuno. E la polemica contro Paolo di Vannini è proprio nicciana totalmente. Nietzsche è il teologo che riduce un'esperienza di fede appunto alle camicie di forza del Logos, e da lì poi tutto lo scandalo della contaminazione della ricerca della religiosità cristiana con il Logos ellenistico. Quindi, mentre Marcione, come tutti sanno, è radicalmente fondato su Paolo. E qui vi è un problema che sarebbe anche interessante discutere. Questo così come anche Harnack, eccetera, è la ricerca paolina che ritorna in Lutero, eccetera, cioè il marcione della cultura teologico-religiosa degli ultimi secoli rientra attraverso appunto Lutero, attraverso il protestantesimo. mentre qui invece ritorna attraverso appunto quella mistica spirituale su cui adesso dirò due parole. Ecco, questa mistica spirituale, tante volte ne abbiamo discusso con Vannini, ha una base evidentemente in Eckhart, è esplicito, insomma, in tutta la tradizione che sfocia nel grande discorso itinerario eckhartiano, ha una base platonico-neoplatonica, non vi è alcun dubbio. E tuttavia, nel modo in cui Vannini reinterpreta, e così radicalmente come in questo libro, più che negli altri, questa tradizione, a me pare che il problema, l'aporia di questa tradizione non venga colta. Non venga colta fino a favore di un'affermazione, di una tesi che risuona addirittura nel motto del libro, no? Della semplicità dell'uno, che non viene sostanzialmente discussa, che viene affermata appunto come tesi, del ritorno del tutto all'uno, perché tutto all'inizio è uno precedente la molteplicità. Ma che vuol dire? L'uno precedente la molteplicità può voler dire soltanto, e non sono appunti a Vannini, sono sviluppi della aporia fondamentale, costitutiva e assolutamente irrisolvibile di qualsiasi teologia o religiosità, eccetera, che voglia fondarsi su presupposti neoplatonici. Questo è il punto fondamentale, su cui tante volte ho cercato di richiamare l'attenzione. L'affermazione di un uno precedente alla molteplicità, assolutamente semplice, a cui il molteplice stesso dovrebbe ritornare, è inconsistente da un punto di vista logico. È perfettamente inconsistente. Perché? Perché un uno precedente alla molteplicità è un uno che ammette inevitabilmente la molteplicità. E l'uno che si ricostruisce dopo la molteplicità non può più essere semplice per nulla, perché è appunto l'uno che si ricostituisce dopo la molteplicità. Questo era il grande dilemma dei neoplatonici. Come spiegare la prodos e come spiegare il ritorno, l'epistrofè. E nessuno di loro riuscì a spiegarlo. Come, diciamo, quasi a priori aveva compreso Platone nella dialettica del Parmenide. Appena affermo un uno precedente la molteplicità, affermo un uno che ne è origine in una forma o nell'altra. Ma se l'uno è origine di quell'uno, non è più uno semplice. E l'uno che ritorna alla fine e l'uno che si ricompone alla fine non può più essere l'uno semplice. E quindi non può essere nessun discorso sull'uno semplice. Nessun discorso. È, diciamo, teologia comunque fare il discorso sull'uno semplice. Ma Marco, coerentemente all'intuizione dell'uno semplice, che non può essere, che è necessariamente arreton, dice che la teologia è menzogna. Dal suo punto di vista ha perfettamente ragione, la teologia è menzogna. Ma lui fa teologia per forza quando parla di un uno semplice precedente alla molteplicità. E non è aporia risolvibile. Fu il grande dilemma, la grande aporia che si consumò tra neoplatonismo e ogni tentativo di recuperarne l'anima, l'essenza all'interno di una teologia che necessariamente aveva a che fare con tutta la tradizione giudaico-cristiana e quindi con quel Dio che, volenti o nolenti, in quella tradizione è ente, ed è ente sommo, ed è quel padre a cui si rivolge anche Gesù, che per quanti salti mortali facciamo non potremo mai io ritengo non solo da un punto di vista esegetico, dove non vi è alcun dubbio, ma anche da un punto di vista di esperienza religiosa, staccare dal padre vetero-testamentario, a meno di non ritenere ancora, ma spero che nessuno di noi lo ritenga, che quel nome padre non era anche nella Bibbia. C'era, e come? Ma c'era certamente, insieme a 100.000 altre robe, c'era certamente in un contesto molteplice di attributi, di atti, di gesti, di vicende, di storie, irriducibili all'uno. Questa irriducibilità anche del Signore vetero-testamentario ritorna nel dilemma, in tutta la complessità e poeticità del Deus Trinitas. Dice Marco: noi siamo la luce eterna, quella immanentizzazione del regno, dell'idea di regno che prima dicevo, noi siamo la luce eterna. Ma appunto, dunque, la luce e noi siamo. E tutto il paradosso del Deus Trinitas, dell'unum sumus, ritorna non appena ne parliamo. Dell'unum plurale, dell'unum sumus. E questo era però anche il dramma dell'idealismo hegeliano, perché qui c'è un punto fondamentale. Io sono d'accordo, comprendo, riesco a pormi, perché essere d'accordo con Marco vorrebbe dire condividere la fede sostanzialmente, questo è evidente, spero che sia risultato bene. Ma posso pormi dal punto di vista di Vannini dicendo: anch'io ritengo che l'ora si è. Anch'io mi opporrei a una escatologia progressista e attuantesi, anche se da un punto di vista, ripeto, esegetico, mi pare che l'interpretazione dell'escatologia come escatologia attuantesi sia la più aderente ai testi che riesco a leggere e per quanto riesco a comprenderli. Ma ne comprendo anche tutta poi le contraddizioni che una visione di questo genere può comportare. Ma il problema fondamentale, che è secondo me il problema che Hegel vede con Hegel, dico apposta cito, perché certamente l'immanentizzazione del regno non ha trovato una affermazione più esplicita e radicale che Hegel, almeno fino a Vannini. L'ora sì, è l'ora, ma nell'ora messianica attuata, realizzata. E qual era il problema che Hegel ha posto in modo assolutamente insuperabile? Nell'ora messianica, anzi, l'ora messianica è l'ora della morte del Messia. Della morte del Messia. Questo è il punto fondamentale. Cioè, è l'ora dello stesso negativo. Non è l'ora dell'uno semplice. L'ora messianica non è l'ora dell'uno semplice, è l'ora in cui appunto al centro di quest'ora è la croce, al centro della rosa fiorisce la croce. L'ora messianica è l'ora della morte, lì si rivela il Messia. In Hegel, drasticamente, cioè una escatologia, a mio avviso, una escatologia attuata, conduce necessariamente a dire che il Messia rivela la morte di Dio. La morte di Dio. E quindi altro che non nichilismo. La morte di Dio. La morte di Dio che coincide per Hegel con la liberazione da ogni trascendenza e l'affermazione del regno come regno della filosofia, della scienza, della episteme. Questo è Hegel. La morte di Dio, la rivelazione, l'ora messianica è la rivelazione, appunto, certo, del regno in noi. Poi Marx dirà: è in noi, ma dobbiamo ancora realizzarlo fuori di noi. In Hegel è in noi ed è realizzato. Ed è il regno della filosofia, della scienza, dell'episteme. Perché? Perché l'ora del Messia è l'ora della morte del Messia, è l'ora della morte di ogni messianismo, è l'ora della morte di Dio. Questo è. Come si fa ad affermare una teologia, una escatologia perfettamente attuata, il regno è in noi, senza trarne queste conseguenze? Il regno è in noi, noi siamo la luce eterna, Dio è morto. Ma cosa significa questo? Dio, ma basta? Qual è il passo successivo inevitabile? Dio è morto e vive eternamente la potenza unica e sovrana, il regno della nostra filosofia. Questa è la conseguenza successiva inevitabile. È la conseguenza che trae Hegel, è la conseguenza che a modo suo trae Nietzsche. È possibile arrestarsi soltanto seguendo questa mistica spirituale? È la linea che segue Gentile, l'attualismo gentiliano? È possibile su questa strada arrestarsi soltanto al fatto dell'escatologia attuata e realizzata, del regno in noi, dell'illuminato che ci illumina, e quando siamo illuminati siamo uno con lui? È possibile fermarsi lì senza fare questo passo successivo? Io, ecco, questo non vedo, non capisco. Se questa è la linea della mistica spirituale, così come anche storicamente, ma non voglio fare un discorso storico di verifica storica, ma così come anche storicamente di fatto si è realizzata, è questa. Questa. Anche Hegel è eccartiano. E come lo è? Ma conduce la sua riflessione fino a questo. Vede l'immanentizzazione del regno in Eckhart, vede il senso di questa mistica spirituale, ma il passo successivo è quello. Certo, la teologia non dice è menzogna, dice ferro vecchio. La filosofia, quando Hegel dice filosofia, dice scienza, vero? Perché quello che fa i libri di filosofia naturale, quello che studia, scienza vuol dire scienza. Vuol dire scienza in Hegel, quando dice filosofia. Vuol dire sistema delle scienze, enciclopedia delle scienze. Questo passo è inevitabile sulla strada di una mistica spirituale, di una mistica dell'uno semplice. Mi sono sforzato appunto esclusivamente di porre in evidenza, se ci sono riuscito, quanto questo libro di Marco, più degli altri suoi, interroghi, inquieti e induca a porre problemi e domande radicali, senza possibilità più di alcun compromesso di ordine storico e udito. Marco ci rivolge delle tesi, si appella a noi, ci invita a mutare mente e a seguirlo su questa strada, che ci conduce da un punto di vista di esperienza religiosa e da un punto di vista anche, se volete, filosofico, nel senso che ho cercato di invitarvi, a conseguenze e conclusioni semmai estreme. Sì, un libro estremo che porta, come ha appena detto Massimo Cacciari, a conclusioni estreme, un lungo percorso che Marco Vannini ha fin qui compiuto e che gli permette di rappresentare anche questa osservazione già fatta da Massimo, raccoglierei. Gli permette di rappresentare una sorta di antitesi altrettanto estrema e radicale, dove per l'appunto la posizione teologica, ma anche quella antiteologica, a suo modo, di un Sergio Quinzio, si fronteggia appunto con la posizione teologica e nello stesso tempo antiteologica di Marco Vannini. È un libro il cui titolo va preso alla lettera, perché è quello che vuole essere, quello che dice di essere. Tesi per una riforma religiosa, dove tesi si può leggere equivocamente, non so se l'equivoco è voluto, ma non ha importanza, come singolare o come plurale. Sono 60 le tesi elencate, presentate, discusse, argomentate. Per quanto possono essere argomentate delle tesi che lasciano affiorare il contenuto di una intuizione religiosa. Dicevo, sono 60, ma sono una sola. Tutte e 60 possono infatti ridursi a una sola, quella che già Massimo Cacciari ha discusso e sulla quale anch'io tornerò, non senza dire, posto che ce ne sia ancora bisogno, so bene che è superfluo, ma tant'è, che la riforma di cui parla Marco Vannini non ha nulla a che fare con la riforma dell'istituzione, della Chiesa visibile. Non ha nulla a che fare neanche con quelle manifestazioni spirituali della Chiesa visibile, che sono i suoi ordini, gli ordini monastici, gli ordini religiosi. No, Marco Vannini in questo suo estremismo, in questa sua radicalità va molto molto più a fondo, va, raggiunge il luogo in cui si tratta e non si tratta se non dell'essenza del cristianesimo. Non so se vi pare poco, abbiamo qui a che fare con un autore che tenta qualche cosa che credevamo da tempo immemorabile, da secoli forse uscito dal nostro orizzonte, tenta una riforma religiosa, e la cosa va presa molto sul serio, ma come se non bastasse, abbiamo anche a che fare con un autore che tenta di afferrare qualche cosa che pensavamo non più afferrabile, non più definibile, l'essenza del cristianesimo. Che cos'è l'essenza del cristianesimo? In cosa consiste questa essenza? Anche di ciò Massimo ha già parlato, come meglio non si sarebbe potuto, ma di nuovo, tant'è, per amore di chiarezza, Marco, che è uomo, come tutti sapete, mite, garbato, raccolto in un suo mondo di studi, però procede nel suo lavoro filosofico e teologico con la durezza di una punta di diamante. E quindi, per amore di chiarezza e anche per simpatia con il suo modo di intendere la filosofia, non temiamo di essere anche più chiari del necessario. Ebbene, l'essenza del cristianesimo, dice Marco, è quella che si è manifestata nella mistica speculativa, nella mistica filosofica, nella mistica in quanto speculazione, in quanto filosofia e nient'altro. Il cristianesimo è filosofia. È filosofia dell'identità, non è altro che questo. È filosofia la cui tesi, quella tesi che occorre riformare, ma cui riformare significa riprendere, riportare alla luce. Il cristianesimo dice che l'anima, o meglio, nel fondo dell'anima è Dio. Dio non è se non nel fondo dell'anima. E l'anima e Dio sono uno, anzi l'uno è in quel fondo dove la distinzione non è più possibile, dove la distinzione è tolta, aphaeresis, latino. Ma da questo punto di vista il cristianesimo certo che non è un cristianesimo della crocifissione, cioè di un evento. È un cristianesimo che si è già manifestato da sempre nella filosofia. Si è già manifestato in Grecia, e non soltanto in Platone, ma prima di Platone, in Eraclito, perché Eraclito, il filosofo a cui più profondamente guarda Marco Vannini per definire questa sua filosofia dell'identità. Attenzione, non l'Eraclito del Pantarei, l'Eraclito platonico, ma l'Eraclito aristotelico, l'Eraclito che dice il logos è uno ed è in te come è nella cosa. Tu sei la cosa nel logos, per il logos tu e la cosa siete uno. Una filosofia rigorosa, estrema, radicale, filosofia dell'identità che perciò esclude tutto ciò che deve escludere, deve togliere via, come ripetutamente dice Vannini, prendendo l'espressione dal platonico Plotino, la phairesis, deve togliere via tutto ciò che identità non è. Ma togliere via tutto ciò che identità non è vuol dire proprio tutto, ma tutto, tutto. Togliere via le ombre, il divenire, ciò che è mobile. E questa invece è l'espressione del suo amatissimo Meister Eckhart, perché se penserai ciò che è mobile non penserai, non afferrerai, non comprenderai se non questo mondo umbratile che non è. Togliere via il male. Togliere via ciò che si lascia dire per paradosso, per metafora, per allusione, in modo simbolico. Togliere via, perché tutto ciò non ha a che fare con la verità. La verità è altra. La verità è l'identità. La verità è quella che si coglie soltanto dopo aver tolto via la differenza. Da questo punto di vista, Vannini è davvero un riformatore, cioè è uno che usa un ventilabro, uno strumento di divisione, di separazione drastica, radicale, senza compromesso, senza mediazione possibile tra ciò che è vero e ciò che non è vero, ciò che è accettabile e ciò che non è accettabile, ciò che è religioso e ciò che non è religioso. Da questo punto di vista il Vangelo, il solo Vangelo veramente degno di essere annunciato, il Vangelo di Giovanni, non ha nulla a che fare con le scritture che lo precedono, ma è la stessa cosa di un frammento di Eraclito, la stessa identica a cosa. Il ventilabro. Tutto ciò che è scritture, scatologia, messianismo, speranza, rivolgimento della mente a un al di là a venire, l'appropriazione di qualche cosa che non è licet nunc dell'essere io, l'essere. Tutto ciò deve essere semplicemente tolto, tolto via. Non può che essere tolto via. E la separazione passa attraverso, per esempio, il mondo cristiano, quello della mistica speculativa. Ora sappiamo che cos'è mistica speculativa, non la pappa del cuore di cui parlava Hegel, non quella appassionata, quella che ricorre appunto all'espediente retorico del mito, del racconto, del simbolo, dell'allegoria, insomma della trascendenza, del riferimento all'alterità, non la pappa del cuore, ma il logos. Ecco, dicevo, se questo è il cristianesimo, il mondo cristiano è tutt'uno con il mondo induista, tu sei quello, tattvasami, con il mondo del buddismo, il Dio vivente, il Buddha, che qui e ora è. Ed è altra cosa, tutt'altra cosa, rispetto alle scritture, che sono pura superstizione, e tutt'altra cosa rispetto all'Islam, che ha un'idea di Dio fondata sull'alterità e sul riferimento all'altro. Che cosa significa usare questo ventilabro, separare in questo modo una filosofia dell'identità in quanto essenza del cristianesimo e tutto il resto? Che cosa significa, oltre a appunto stabilire delle analogie, delle parentele, delle affinità profonde fra cristianesimo, induismo e buddismo da una parte, e stabilire delle difformità, delle inimicizie altrettanto profonde fra cristianesimo e ebraismo, cristianesimo e filosofia della trascendenza o del Dio altro, del Dio di là a venire. Che cosa significa? Che cosa comporta? Beh, tutta una serie di cose, alcune delle quali già ho fatto cenno, ad altre proverò ora a sottolineare. La prima di queste conseguenze è che il male, anzi come lo chiama Vannini, il pensiero del male è un pensiero mal pensato. Anche questo va tolto. Il pensiero del negativo che resta nel qui e ora dell'Apocalisse, della Rivelazione, va tolto. Lo ha notato già Massimo Cacciari. Non ci può, agli occhi di Vannini, essere alcuna concessione a una negatività che resiste nel cuore dell'esperienza dell'uno. Non ci può essere nessuna concessione anche a nessuna differenza che resiste nel cuore dell'uno dopo che è stata tolta. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu hai intuito, se tu ti sei schierato, hai scelto, ti sei deciso, come avrebbe detto Massimo, per la verità, infatti è una decisione, questa non è una teoria, se tu ti sei deciso per la verità, non sai più che cosa fartene di coloro che della verità ti parlano attraverso simboli e allegorie, certo, attraverso racconti, attraverso miti, attraverso favole, attraverso paradossi. Dove invece, nel caso tu voglia tenere ferma la differenza, così come il negativo nel cuore dell'uno, dovrai e non potrai non far riferimento a miti, racconti, allegorie, simboli. Non potrai addirittura non riconoscere nel male, nel negativo che resta, qualche cosa come una verità necessaria di Dio. In questo senso davvero Vannini sta agli antipodi rispetto ad altre teologie, quella di Quinzio per esempio, che sono piuttosto ispirate, Vannini direbbe, al due, io potrei dire tranquillamente al dussos logos, cioè al tragico. Non solo, ma ad essere sacrificata, necessariamente sacrificata, è anche la poesia. La poesia non è una forma di verità. Può esserlo a patto che illustri una verità che si è già data altrove. Marco Vannini, tra i suoi altri meriti, e ne ha tanti, ma proprio tanti, e gli siamo tutti grati perché quello che lui ha fatto nel campo della mistica è un bene, davvero un'eredità che ci lascia, beh, insomma si fa per dire, eredità che ci lascia, preziosissima. Lui tra le tante cose è anche l'editore di quel capolavoro di poesia e di mistica che è l'Angelo Cherubico di Silesio. Eppure questo libro, queste perle che scorrono sotto i nostri occhi in distici mirabili, da lui mirabilmente resi, tradotti, interpretati e continuamente, questo libro altro non è che una illustrazione delle tesi di Meister Eckhart, e sta e cade insieme con quelle tesi. Questo vale per tutta la poesia. Vale anche per Dante, quel Dante alle cui rime finali, ai cui versi finali è intitolato comunque trova la sua apertura il libro. E tuttavia Dante, dice Vannini, per la verità non dice esattamente questo, ma la sostanza è questa, possiamo benissimo, una volta trovate alcune perle che sono residui di un pensiero medievale, per così dire, richiusosi su se stesso dentro quest'ostrica che è la Divina Commedia, una volta riportate alla luce queste pure perle, che appunto altro non sono che frammenti di pensiero medievale, ancora capace di dire l'uno, di dire l'identità, dopo aver tolto la differenza, possiamo, grande poema, benissimo, lasciarcelo alle spalle. Non c'è verità, non c'è rivelazione nella poesia in quanto tale, e tantomeno c'è verità, c'è rivelazione, c'è senso nella letteratura, nel racconto, nel romanzo. Ma già la Bibbia, del resto, che è per antonomasia un capolavoro letterario, che è letteratura, già la Bibbia era apparsa, e non a caso, ma con estrema coerenza, Vannini, come puro frutto di superstizione, come una forma tutt'al più di retorica. Questo è inevitabile, ma c'è di più. C'è che, e un passo conclusivo del libro di Vannini non potrebbe essere più chiaro, le tre virtù teologali, le virtù tipicamente cristiane, fede, speranza e carità, sono in realtà quattro: fede, speranza, carità e verità. Ma le quattro virtù teologali in realtà sono una, sono soltanto una, è solo la verità, perché la fede altro non è che conoscenza della verità, dell'uno. La carità altro non è che rispecchiamento di questo stare nell'uno, di questo accogliere l'uno. Ma accoglierlo non in senso appropriante, direbbe Vannini, ma in senso accogliente, per l'appunto. E la speranza? Forse sarebbe meglio non parlarne, essendo troppo equivoca, essendo comunque un movimento verso un al di là irreligioso, o comunque tale da renderci prigionieri dell'altro. In nessuna pagina come in quella appare con estrema chiarezza quello che è il movimento speculativo, uso il termine perché appunto abbiamo a che fare con una mistica speculativa, il movimento filosofico che è proprio di questo libro. Non la verità riportata alla carità, alla fede, alla speranza, come proprio di una filosofia, di una ermeneutica del cristianesimo, che non può pensare alla verità se non in questi termini, se non in termini di paradosso, in termini di carità, in termini di contraddizione addirittura. La verità cristiana è quella che tiene insieme, lo diceva prima Massimo, la vita eterna e la morte. Dunque, non la verità riportata alla carità, non la verità riportata alla fede, non la verità riportata alla speranza, con un gioco dialettico che è gioco dell'identità e della differenza, e con un'apertura alle scritture, al mito, alle forme infinite della rivelazione religiosa, quella rivelazione che invece lui toglie, perché è come se venisse da un altrove, da un cielo lontano che non è il nostro. Non questo. Non questo movimento, ciò che si compie in questo libro, ma il movimento opposto. Veri, fede, speranza e carità vengono, per così dire, tolte e fatte ricadere dentro la verità. C'è un esempio che potrei fare di questo, a indicare la duplicità di questa prospettiva, e che traggo da un autore che amo molto, e che anche Marco ama, Dostoevskij. Dostoevskij torna spesso su una delle citazioni che troviamo nella teologia tedesca, che troviamo forse già in Meister Eckhart, e che Marco ha, per così dire, tradotto in modo colloquiale, questa è proprio notizia di qualche giorno, in modo molto, molto espressivo. Qual è la citazione? La citazione è quella che dice: tutto è bene, tutto ciò che accade è giusto che accada. Tutto, ma proprio tutto. La troviamo nei grandi mistici, la troviamo ma già in Eraclito, la troviamo infine in Dostoevskij. Dostoevskij in bocca a chi la mette questa affermazione? Affermazione che, intendiamoci, lui non contesta, ma presenta in tutta la sua equivocità. La mette in bocca a Kirillov. Kirillov è uno dei demoni. Kirillov è convinto, come lo è padre Zosima, che tutto è bene. E tutto è bene perché l'uno è tutto. E tutto è uno. E tutto è bene là dove l'anima in Dio non può non riconoscere che tutto è bene. Ma ecco che in Kirillov questa tesi diventa una sorta di ossessione. L'ossessione di chi non la trattiene sul piano di una dialettica e quindi di una equivocità sostanziale, di una paradossalità sostanziale, ma la spinge, la identifica con la verità in quanto tale. Kirillov, a cui viene chiesto: ma allora tutto è bene? Sì, tutto è bene, anche che la bambina sia stuprata, ebbene sì. E poi, preso da questa sorta di parossismo, dice: e se lo stupratore sarà preso e portato in galera, sarà bene; se gli taglieranno la testa, sarà bene; se lo manderanno libero, sarà bene, perché tutto è bene. Attenzione, Dostoevskij non contesta questa tesi, solo che non la fa diventare una tesi, solo che la trattiene sulla soglia di una, in una dimensione di assoluta paradossalità. Si può dire, ma la può dire chi sa che è vero nello stesso tempo il contrario. Perché è male che la bambina sia stuprata, perché è male che lo stupratore sia lasciato in libertà, ma è male anche che allo stupratore sia tagliata la testa. Identità e differenza. Ma se l'identità porta dentro di sé la differenza, e quindi il negativo, allora il logos non sarà quello che liquida, che toglie di mezzo fede, speranza e carità e le identifica con la verità. Tutto è bene, non si può dire altro. Verità parmenidea. E l'altro è paradosso, e l'altro è sofisma, e l'altro è favola. No, non si potrà, dicevo, far cadere fede, speranza e carità nella verità, togliendo di mezzo ciò che precede e ciò che è essenziale. Bisognerà piuttosto far cadere la verità in quelle virtù che ne rendono possibile la sola espressione accettabile. Paradosso, allusione, dire l'uno e dire il due nello stesso tempo. Quello di Marco Vannini è un libro estremo, rigoroso. Ho parlato prima di il diamante che ritroviamo in queste sue pagine, ma è anche, non dico che sia solo questo, e con questo spero di non farti torto, ma lo dico perché mi aiuta a spiegare meglio che cosa intendo e come ho letto il tuo libro. È anche una forma, forse la forma, di nuovo sempre gli stessi aggettivi, più estrema e più rigorosa di parmenidismo filosofico. Guardate che il parmenidismo filosofico è qualcosa di molto importante, di molto serio, che ritorna nella storia della filosofia. Ultimamente, pensate a quello che è accaduto a Milano tra Buntadini e Severino, insomma. Ritorno a Parmenide l'ha proclamato Buntadini, mica Severino, con dei correttivi poi, ma appunto ritorno a Parmenide. Anche qui si ritorna a Parmenide, curiosamente non a Parmenide, che non viene citato neanche una volta. Si ritorna a Eraclito, o Eraclito come forse sarebbe meglio dire, quell'Eraclito che, ripeto, è il vero filosofo dell'identità, è il vero Parmenide in questione. Ma fatta questa scelta, è inevitabile che ne seguano quelle conseguenze che abbiamo visto. Fatta questa scelta, tutto il resto è follia, esattamente come Severino non fa che ripetere nei suoi... Esattamente come lo scolaro di Parmenide, Zenone, non faceva che ripetere, dimostrando che qualsiasi logos che dicesse, che pretendesse di dire altra cosa che l'identità, è logos fasullo, menzognero, che cade in contraddizioni, che produce sofismi, Zenone. E lo stesso è accaduto a Buddha e al suo allievo, Nagarjuna, il quale ha sviluppato inconsapevolmente, senza nessun rapporto naturalmente con Zenone, sofismi analoghi in India. Ma vedete come tutto si tiene? Perfettamente coerente quello che dice Buddha, uguale Parmenide, uguale il Cristo di Giovanni. Sono gli illuminati, diceva Massimo. Ma l'illuminazione che cosa consiste? Consiste nel dire la sola cosa dicibile. Sii l'essere. Abbi questo coraggio. E tutto il resto? Tutto il resto non esiste. È follia. Liberatene. Siamo disposti a liberarci di tutto questo? Una domanda che chiedo, che rivolgo a Massimo. Cercherò di dire qualche cosa su questo libro, anche tentando, almeno in parte, di venire incontro a queste terribili, nel senso platonico parmenideo, insomma, osservazioni che mi sono state rivolte, osservazioni, non voglio dire critiche, ma insomma, che mi sono state rivolte sia da Cacciari che da Giponi. Beh, per cominciare in maniera forse più, diciamo, semplice, accessibile, vorrei dire in qualche modo come è nato questo libro, quale metodo rilasciamo. Beh, io credo che noi dobbiamo appunto guardare onestamente in faccia la realtà, che è la realtà storica, che è il sapere, che è la scienza. E sotto questo profilo il fondamento biblico del cristianesimo mi sembra inaccettabile, mi sembra rovinato. A me sembra lì che sia un pochino la fiaba, i vestiti dell'imperatore, no? Che insomma, lo sanno tutti, il re è nudo. Però insomma, nessuno dice, mi sembra sia vero, no? Finché non arriva il bambino, con questo caso sarei io, il qua dice, guardate, è nudo. Perché? Ma perché se noi prendiamo, se noi prendiamo la letteratura scientifica, non, non retorica, che riguarda questo argomento, ora io vi risparmierò citazioni, citazioni di libri che comunque sono, sono di davanti. Cominciamo dal cosiddetto Vecchio Testamento. Uno studioso contemporaneo, Liberani, nel libro Oltre la Bibbia, Storia antica di Israele, intitola tutta una sezione Una storia inventata. Perché inventato l'esodo, inventata la conquista della terra promessa, inventati i giudici, inventata la storia del Regno Unito e quella del Tempio di Salomone. Ma ancora di più, inventato il monoteismo, inventata la legge. Dove per inventata cosa si intende dire? Sta parlando uno studioso, vorrei citare una, quasi due, che sono gli israeliani, Finkelstein e Silberman, nel libro Le tracce di Mosè. Cosa si intende per inventato? Ma insomma, sostanzialmente si dimostra da un punto di vista storico, filologico, archeologico, quello che personaggi ovviamente da tutti amati, almeno da qui presenti, come Spinoza, avevano già intuito, avevano già visto, insomma, no? Che questo è un libro, questi sono libri, i quali sono nati in un certo periodo, che ormai insomma è definito, per sostenere alcune cose, di natura politica, di natura sociale, ma come dire, la verità storica dei medesimi non c'è, si tratta di creazioni letterarie. Uno studioso domenicano, cioè cattolico, diceva qualche anno fa, una cosa qualche decennio fa, se la fede storica di Israele non è fondata sulla storia, tale fede è erronea e pertanto lo è anche la nostra, diceva il domenicano, in quanto che il cristianesimo, diciamo sì, come noi lo conosciamo, come insomma, mi è stato insegnato, come beh, non è più lo stesso in realtà, ma come diciamo nella sua versione per noi più comune, si appoggiava appunto su questa vicenda storica, storica, no? Questo insistere, il Dio che si rivela, Abramo, il viaggio, eccetera, il regno, il tempio, eccetera. Ora, cosa facciamo noi qui? La domanda è rivolta retoricamente, ma anche bene, cosa facciamo? Facciamo finta di nulla. Cioè, continuiamo a utilizzare questi testi in funzione, diciamo così, sapienziale, no? Perché dice, ma sono belli, rimandano a tante cose importanti, significativi, eccetera. Cosa possibilissima. Io, come è stato benevolmente ricordato qui, e come voi sanno, in fondo, diciamo, per tutta la vita finora, perché lasciamo stare l'eredità, mi sono dedicato a, diciamo, tradurre, studiare spesso dei medievali, non senso, i quali commentavano la Bibbia, no? Come sono, facevano questo di mestiere, il professore medievale leggeva la Bibbia e commentava, così ad esempio Eckhart, per tutta questa. E quindi ha voglia a trovare significati belli, profondi, spirituali, morali, eccetera, eccetera. Vabbè, innanzitutto però, sempre con quell'amore di chiarezza che è stato usato verso di me, che io continuerò a usare, Ma innanzitutto io dico, ma sì, questo bello, a volte non lo è, insomma, sì, a volte sì, a volte no. E io sono, per esempio, del tutto convinto dell'opinione della Veil, che insomma, l'Iliade o alcune cose della tragedia greca siano molto più belle. Ma non è questo il problema. Il problema è che, voglio dire, fondiamo veramente e non soltanto così appunto per una attività di carattere culturale, dove culturale qui lo intendo nel senso negativo, no? Di discorso, dice. Fondiamo veramente la religione, la fede in Dio, nell'assoluto Deus Veritas, come spesso diceva Agostino, su questo? Io penso di no, penso di no. Aggiungerò che venendo anche al cosiddetto Nuovo Testamento, dico cosiddetto perché queste definizioni sono teologate, sono frutto di una teologia, non appartengono di per sé stesse né all'uno né all'altro, insomma, tanto uno appartengono a Gesù. Anche se veniamo al cosiddetto Nuovo Testamento, la situazione non è la stessa, indiscutibilmente, però non è anche qui, come dire, tanto confortante. Io ho in mente un libro che è uscito da poco, che ha grande successo, meritatissimo a mio modo di vedere, quello di Pesce, no? Augias Pesce, non mi ricordo come si intitola, insomma, che è il best seller in questi giorni, che è un libro molto serio, anche perché Augias fa le domande, ma le risposte da Pesce che sa le cose. Insomma, noi il nostro sapere vero su Gesù, certamente qualcosa sappiamo, non è che non sappiamo niente, no? L'ipotesi, l'antica ipotesi cosiddetta mitologia, cioè non è esistito, l'hanno inventato, questo, no? Cioè, però, ecco, per esempio, cosa possiamo dire? Io mi riferisco proprio alle ultime cose, ora dice anche Pesce, ma anche queste, insomma, in fondo si sono sempre sapute, ma il bello è la conoscenza specifica, filologica, quindi, ma che in realtà il cristianesimo, non solo come parola, ma anche come concetto, è una creazione dei secoli, ma insomma terzo, quarto, e poi oltre ovviamente. Cioè si è avuto cristianesimo, quello che noi insomma grosso modo consideriamo tale. Ora so benissimo e poi i cristianesimi sono tanti, insomma, che quindi in 2000 anni ci sono tante possibilità, però insomma, quando si dice cristianesimo, tutto sommato un po' ci si intende. Bene, questo si è costituito certamente con riferimento a un personaggio ebreo che era Gesù, e a partire da un milieu palestinese, ebraico, eccetera, eccetera, ma si è costituito quando queste prime comunità, che avevano idee diversissime, no? Che hanno prodotto 1000 Vangeli, non solo 4, ma una valanga, eccetera, eccetera, con le cose più diverse, quando queste comunità si sono incontrate con la filosofia greca, con il platonismo, con il neoplatonismo, o comunque con quello che fosse. Con la filosofia del logos, insomma, del logos. Sotto questo profilo, colgo anche l'occasione un attimino per, diciamo, venire incontro alle osservazioni che hanno fatto i due amici qui presenti. Sotto questo profilo, non c'è nessuna vergogna nel dire il cristianesimo è una filosofia. così lo diceva Giustino Martire. Quelli che scrivevano, dicono gli antichi, quando il sangue di Gesù era ancora caldo. Insomma, lo dicono loro, lo dice Agostino. Agostino, nel De vera religione, dove sostiene che la vera religione è la vera filosofia, ed è il cristianesimo, perché il cristianesimo è la vera filosofia e la vera religione. Sic docetur et creditur, cito a memoria, podest salutis caput, non aliam esse philosophiam et aliam religionem. La stessa cosa, sono la filosofia e la religione. Perché ovviamente, questo lo poteva dire perché, lo so che è una frase per noi inconsueta, cioè per la massa della cosa inconsueta, perché noi siamo abituati a una certa idea di filosofia, che è quella di un'attività sostanzialmente accademica, dove il filosofo è il professore universitario e la filosofia è prevalentemente una lettura e commento di testi, riferimento a tesi, eccetera. Ora, se si tratta di questo, indubbiamente non ci si intende. Ma se noi invece prendiamo la parola filosofia come ancora la poteva prendere Agostino, o comunque come è nella filosofia antica, là dove insomma la filosofia è nata e c'è stata, cioè come una scelta di vita, un genere di vita, non semplicemente un'attività che si fa a tavolino, ma qualche cosa che involge tutto l'essere, che c'ha dietro una ascesi, che ha dietro un genere di vita. Che è poi quale genere di vita? Il genere di vita del distacco. Se noi intendiamo questo, ah sì, io sono convinto che il cristianesimo è una filosofia, anzi è la filosofia, anzi aggiungerò di più, la vera filosofia. Secondo elemento, diciamo così, che regge questo libro, cioè che lo ha ispirato. Bene, sì, appunto, io ho avuto per qualche caso seria moglie, per qualche fatto divino, fin da ragazzo, questa familiarità con autori cosiddetti della mistica, anche qui usiamo parole consuete. La mistica in particolare del Medioevo, in particolare tedesca, ma non solo, perché il discorso si potrebbe fare, e cercherò di farlo, spero, nel prossimo libro, quindi ci rivedremo presto. No? Non è una minaccia, no. Sono ben contento. Lo possiamo fare per San Giovanni della Croce, il quale non è stato condannato mai come eretico. È vero che i suoi confratelli lo ficcarono, lo ficcarono un po' in galera, eccetera, però insomma, poi è stato riconosciuto dottore della Chiesa Santa, perché guardate che è la stessa cosa, insomma, è la stessa cosa. Beh, cosa c'è in questo mondo, appunto, che io ho amato e amo sempre di più, e modestamente ho cercato anche di far conoscere? Beh, c'è questa cosa, l'esperienza, e qui vengo appunto a cercare un attimo le parole di Massimo, cioè l'esperienza dell'uno in modo assolutamente indipendente, questo è il punto, dal retroterra biblico. In modo indipendente. Noto che si tratta quasi sempre di religiosi, membri di ordini, domenicani, francescani, carmelitani, anche al femminile, non sempre, anche là, insomma, queste persone tutte quante per ragioni storiche dei tempi in cui vivevano, insomma, erano cristiani, come diciamo pure a me non riesce più di essere perché loro pensavano che la Bibbia fosse la parola di Dio prout verba sonant, va bene, cioè che insomma c'era Adamo, Eva, hanno mangiato la mela e compagnia, eccetera eccetera, Abramo, se fa luce, ma alla lettera, alla lettera. Loro credevano questo, ma oppure e, perché qui secondo me non è un ma, è un e, bene, hanno percorso un cammino dell'intelligenza. Sì, lo so che l'espressione speculativo può risultare un po', come dire, presuntuosa, noiosa, perché dà l'idea di chissà mai noiosa. Ma non è così, è il cammino dell'intelligenza, dell'intelligenza. Intelligenza e amore insieme, no? I due occhi dell'anima. Bene. Ecco, persone che hanno compiuto un cammino spirituale e sono approdate, certamente con degli aiuti, ma a volte neanche, perché i maestri domenicani del 300, come Meister Eckhart, sapevano qualcosa di Procolo, non conoscevano Plotino, ma avevano delle, così avevano letto il libro 24 di Filosofologia. Summula plotiniana, sì, avevano un altro nome, sì, avevano certamente, non lo conoscevano bene, insomma, un giuro di nome, non aveva mica di Aristotele, che era una summa di Plotino, sì, la di Aristotele, sì, in quanto che appunto potevano avere questi strumenti per noi magari imperfetti, cioè, forse l'intelligenza supplina. E dicevo, sono approdati, ripeto, in quanto cristiani, ma indipendentemente da questo ancoraggio, da questo retroterra di carattere scritturistico, ha appunto una grandissima, a mio parere, ma tutti qui ovviamente, parliamo di noi stessi, esprimiamo i pareri, a mio parere, quanto di più, direi profondo, bello, anche sotto il profilo di beatificante, lieto, io conosco. Ho detto esperienza dell'uno perché questo termine indubbiamente continuamente ricorre e fa riferimento, come è stato detto, a un passato filosofico, che è un passato greco, neoplatonico. E so bene, o perlomeno so abbastanza anch'io, che ci sono delle aporie su cui Massimo Cicciari puntava l'attenzione. Sotto questo profilo, appunto, rimarrebbe soltanto l'indicibilità e il silenzio. Invece noi parliamo perché vogliamo comunicare qualcosa. E io non tenterò naturalmente di risolvere io le aporie, perché se Platone nel Parmenide lascia in sospeso la cosa, non proverò io, tanto ne migliora. Però cosa vuol dire poi? Ecco, questo credo si possa tradurre per cercare di capirci. Esperienza dell'uno è questa esperienza di profondo distacco e di assoluta, come dire, non alterità dell'essere. Forse è quello appunto che si chiama, o si diceva, ma io questo devo dire, non lo dico mai, la presenza del regno dietro, di una realtà che è una realtà, tra virgolette, assoluta, pur essendo contingente, pur essendo qui ed ora, la nostra finitezza, la nostra temporalità. Allora, io ho tentato di dire questo. Credo che si possa sostenere con onestà anche scientifica, alla quale non voglio assolutamente rinunciare, che il nucleo del messaggio cristiano, e qui cristiano fa riferimento proprio a Gesù, insomma, sia il abnegare semetizzo, chi vuole essere mio discepolo rinunci a se stesso e prende la sua croce e mi segue. Questo rinuncia, l'abnegare, il distacco, su cui poi si intesse, e questo è quello che hanno fatto i grandi mistici cristiani, su cui si intesse proprio tutta la via del distacco. Le famose notti di San Giovanni della Croce, no? Le notti, in realtà Giovanni della Croce riprende un sermone di Tauler, quando sermone Duc in Altum, quando l'evangelista che è Luca, capitolo quinto, racconta di Gesù che fa fare la pesca miracolosa, no? Agli apostoli, i quali dicono: abbiamo lavorato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma in latino nihil venimus, no, non abbiamo preso il nulla, abbiamo lavorato tutta la notte e niente, e il nulla abbiamo preso. E Tauler spiega: certo, questo è il lavoro della notte, è il distacco, abnegare semetipsum, abnegare proprio. Per cui, in maniera mirabile, in maniera assolutamente accessibile a tutti quanti, uomini e donne, colti o indotti, in modo immediato, ohne Mittel, senza mediazione, là dove questo distacco è compiuto, nel vuoto che l'anima ha fatto, entra la luce divina. Ma Massimo Cacciari mi attribuiva un verso: noi siamo la luce eterna, eccetera, che non ho scritto io, perché il mio narcisismo non si spinge fino a questo punto a dire noi siamo la luce eterna. È un verso di Silesius, è un verso del mistico Angelo Silesio, che è stato ricordato da Sergio Livone, il quale era un prete cattolico, tra l'altro convertito dal protestantesimo al cattolicesimo, diventato prete, con una straordinaria simpatia per la religione popolare, per i santi, per la Madonna, per tutto ciò che, insomma, di per se stesso non è lo speculativo, ma che si salda senza difficoltà con lo speculativo stesso. Sì, e lui scrive: noi siamo la luce eternamente brilla, noi. La Schwester Catrai, che da poco ho pubblicato, dice: io sono diventata Dio. Ich bin Gott worden. Perché la teologia mistica, la mistica, diceva a questo proposito un autore importante, che è Gerson, è la più facile di tutte, giacché non presuppone, e insisto su questo, non presuppone sapere il latino. Sotto questo aspetto ora si sarebbe avvantaggiato, non presuppone la conoscenza della teologia, non presuppone la ricerca, ma presuppone soltanto una cosa: il distacco. Per cui le povere suore ignoranti, non lo dico naturalmente in senso offensivo, che ascoltavano Eckhart Tauler, alcune di esse all'improvviso dicevano: io ho capito, ich schwebe in der Wahrheit, io mi libero nella verità. Vedo che il tempo stringe. Ecco, questo tenta di dire, no, questo tipo di esperienza, che non è assolutamente elitaria, ma è, io credo, la più profondamente umana che ci sia, questo tenta di dire in maniera filosofica, o ovviamente in maniera dotta, in un certo senso, il linguaggio dell'uno, che va incontro, ma poi alle aporie forse va incontro ogni linguaggio, ma certo più che altro questo, più che altro questo. Il problema del male, che è stato sollevato come in un certo senso mi aspettavo e desideravo da Sergio Rigone, è ovviamente centrale in questo, perché certo l'esperienza "io sono la luce eterna, eternamente brilla" è un'esperienza di luce, è un'esperienza di gioia che, come dire, non vede il male, ma non vede il male non in una maniera banale, nel senso che va tutto bene, quindi, anzi, sotto questo aspetto il contrario. Il contrario, perché se v'è distacco, la prima cosa che penso è "omnes creature sunt unum purum nihil", cioè io non sono niente, non so nulla. E mi resta perciò difficile, mi resta impossibile, come dire, caricarmi di qualche valore, farmi qualche valore. Ma il male, il pensiero del male sta tutto sotto questo profilo, e qui devo dire la consonanza con le grandi tradizioni spirituali dell'Oriente, dell'India, è pressoché totale. Il pensiero del male sta, come dire, nell'occhio che guarda, è l'occhio tuo che vede questo. Quindi, più che Kirillov, di Dostoevsky mi piacerebbe citare un altro personaggio, i fratelli Karamazov, il piccolo Markel, che malato e morente, no? con quelle situazioni terribili che Dostoevsky sapeva immaginare, ma insomma, che poi pure sussistono, e si rivolge alla madre, mi sembra, dicendo: "Mamma, il mondo è un paradiso, tutto il mondo è un paradiso". Forse il Dostoevsky non lo sapeva, sta citando, sta riprendendo alla lettera la teologia tedesca, la non francofortese. Il mondo è un paradiso, questo mondo è un paradiso. E Markel aggiunge: "Noi non lo riconosciamo però, ma se lo riconoscessimo come tale, domani questo mondo sarebbe tutto quanto un paradiso". E anche per quanto concerne la poesia, no, io non sono affatto nemico, come dire, della poesia. Casomai sono un nemico nel senso platonico, là dove appunto la poesia è qualche cosa che non ha a che fare, come dire, con la verità. Ma di Platone e per la poesia, con Platone e per la poesia, sono d'accordo assolutamente. Se si prende lo Ione o se si prende il Fedro, c'è un poeta che è invasato da Dio, e allora di fronte a quello, naturalmente, non è il mio caso, e quindi io non scrivo poesie, ma di fronte a quello non posso altro che palesare stupore e ammirazione. Ecco, concludo, perché ho già parlato abbastanza. In questo libro, che è stato detto sì estremo, di rottura, eccetera, e in realtà questo è vero, però mi piace sottolineare, diciamo, il positivo, perché, per dirla proprio rapidamente, io sono convinto che il cristianesimo per un certo verso sia alla fine, anche se non se ne è accorto, come quell'eroe, no, che del colpo non accorto andava combattendo ed era morto, nel senso che prima o poi questi nodi verranno al pettine, insomma. Cosa si fa? Si continua a far finta che siano vere quelle storie, cioè. Per un certo verso sia alla fine, ed è giusto che sia così, perché il primato deve essere della verità, e quindi della scienza, la dove è scienza. non sto dicendo dello scientismo, ma della scienza, del sapere, per un certo verso, ma per un altro, a mio parere, sia assolutamente all'inizio, assolutamente all'inizio. E questo anche, come dire, vorrei comunicare con questo libro. All'inizio perché non è cambiato niente, cioè non è stato toccato niente di essenziale, ma si tratta di ritrovare questo essenziale, che ho cercato di dire cosa fosse. E l'essenziale è qui davanti, può parlare appunto a ciascuno di noi in maniera assolutamente chiara e senza essere toccato, come dire, corroso in qualche maniera dai tempi. Sì, ecco, questo senso dell'inizio mi piacerebbe comunicare. Agostino diceva l'uomo è stato creato ut initio esset, no? Perché fosse inizio. E un grande, grande teologo, filosofo, appunto, uno di quei platonici che hanno messo su il cristianesimo, che è Gregorio di Nissa, nella Vita di Mosè mette in bocca a Dio queste parole: come percorrerai sempre inizi. Grazie. Grazie. Dopo salutare e ringraziare tantissimo Marco Vannini, Massimo Pesciari e Sergio Di Bona per una serata davvero molto importante.